Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donelli. Dunque, l'Europa oggi significa conti che sono in primo piano quelli italiani, ma non solo. Infatti anche la Grecia è sotto pressione, proprio per questo interviene poco fa Martin Schulz, dunque il presidente uscente del Parlamento Europeo, ora candidato SPD alla cancelleria a Berlino. Dice: chi ora vagheggia con la Grexit gioca con la divisione del continente. Schulz, parlando alla Welt, e ha aggiunto alcune riflessioni, ha detto: questo forse è nell'interesse di Donald Trump o di Marine Le Pen, ma di sicuro non è nell'interesse della Germania e dell'Europa. E attenzione, ha concluso, l'ipotesi, il gioco di continuare a parlare di uscite di paesi europei, naturalmente dopo la Brexit, è estremamente pericoloso. Ma oggi giornata di conti che naturalmente interessano in prima battuta quelli sull'Italia. Sentiamo allora su questo Beda Romano. La Commissione europea ha pubblicato stamani qui a Bruxelles le sue nuove previsioni economiche. Se a livello di zona euro la crescita è stata rivista al rialzo dall'1,5 all'1,6% nel 2017, l'Italia continua ad arrancare drammaticamente. Per quest'anno l'esecutivo comunitario prevede una crescita italiana dello 0,9%. Per il 2018 le previsioni parlano di un'espansione dell'economia di appena l'1,1%. Dei 28 paesi dell'Unione, l'Italia è quello con l'economia più debole e lenta, oberata da un debito pubblico ben sopra al 130% del prodotto interno lordo. Nel suo rapporto trimestrale sulla congiuntura, la Commissione europea nota che l'incertezza politica è un rischio per l'economia. La presa di posizione giunge mentre la maggioranza governativa dibatte nervosamente di elezioni anticipate e discute dell'opportunità di risanare i conti pubblici come chiesto dai partner europei. Il Paese è a rischio di una procedura per debito eccessivo se il governo italiano non facesse proprie le richieste comunitarie, come ha ribadito oggi il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Italy is forecast to grow by 0.9%. Ed eccolo Pierre Moscovici, o meglio lo sentiamo mentre parla poco dopo mezzogiorno, dunque sui dati. Ha detto, tra l'altro, è assolutamente sbagliato parlare di ultimatum per l'Italia. C'è una discussione positiva con Roma, in particolare con il ministro Piercarlo Padoan, una discussione che va avanti evidentemente da mesi nei due ruoli, nessun ultimatum di sorta, ma dialogo costruttivo. Ovviamente, ha detto Moscovici, vogliamo vedere che misure verranno prese. Questo per la questione appunto dei conti, del rischio di procedura di debito eccessivo, ma c'è sempre anche un altro tema importante che riguarda il finanziamento per i progetti, quelli che sono i fondi europei. Come sapete l'Italia ha una storia abbastanza complessa in materia. Sentiamo il punto dalla nostra collega Chiara Bussi. L'Italia è nota alle cronache per la spesa a passo lento dei fondi strutturali. Per quelli a gestione diretta per la ricerca, l'innovazione e la competitività delle imprese, il ritmo è invece decisamente più veloce. Come rivelano i dati elaborati da Assocamere Estero riferiti al 2015, l'ultimo aggiornamento disponibile, il nostro paese si situa infatti al quarto posto con oltre 3.600 progetti vinti. Il primo beneficiario, ironia della sorte, è la Gran Bretagna, che a marzo avvierà i negoziati per lasciare l'Unione. Seguono la Francia e la Germania. In totale, i primi 10 paesi si sono aggiudicati 29.000 progetti, per un valore complessivo di 41 miliardi. Se il focus si sposta invece sulle risorse ottenute, è la Germania che stacca tutti e si aggiudica il 17% della torta, seguita da Gran Bretagna, Francia e Spagna, mentre l'Italia passa alla quinta posizione. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, e allora come abbiamo anticipato, tutti convocati, la nostra grande pagina sportiva, noi ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.